faccia anche se non ti conosco. Stai sbagliando tempo eppure posto. Provi nel weekend a cambiare aria, poi ti svegli ed è la solita storia. Oggi chi è il domato, chi è il domatore? C'è da stare attenti alle parole. Tra competizione e motivazione, metti nelle cuffie una canzone. In mezzo a questo fango, a questo tempo spento, noi con l'anima in fiamme, contro i mulini a vento, anche all'1%, noi con l'anima in fiamme. Tutti collegati già da colazione, i soldi una dannata ossessione. Furbi sì, ma col culo degli altri, sperando di non essere scoperti. Traffico e scadenze, nuove dipendenze, foto all'arrivo alle partenze. Tra rivoluzione e rassegnazione, che rumore fa la tua passione? In mezzo a questo fango, a questo tempo spento, noi con l'anima in fiamme, finché la palla al centro, la scintilla è dentro, noi con l'anima in fiamme. Fango a questo tempo spento, noi con l'anima in fiamme, contro i mulini a vento, anche all'1%, noi